Monti alla prova della Camera, ridaremo fiducia all'Italia, ma non dite staccate la spina, non siamo un polmone artificiale. La prossima settimana gli incontri in Europa con Merkel e Sarkozy, un tavolo a tre per le ricette per uscire dalla crisi. Pallavolo, il Giappone regala fiducia alle italiane, la World League. 'Ndrangheta, maxi processo a Milano, nel pomeriggio la sentenza. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Abbiamo sentito in diretta la replica del Presidente del Consiglio Mario Monti alla Camera. A Montecitorio ora sono in corso le dichiarazioni di voti. In questi istanti sta parlando Antonio Di Pietro, ma sentiamo che succede. Andiamo da Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno ancora. Nessuna traccia di Silvio Berlusconi nell'aula di Montecitorio. Il Cavaliere snobba per il momento l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Monti e non si è visto la Camera, quindi non ha nemmeno potuto ascoltare i ringraziamenti nei suoi confronti fatti proprio da Monti, applauditi comunque solo dal PDL. Su Facebook una retromarcia. Prima aveva annunciato che voleva intervenire in aula per le dichiarazioni di voto, ma poi Berlusconi ha fatto sapere che non lo farà e interverrà il segretario Angelino Alfano. Una fiducia a tempo, sembra questa la tesi che prevale nel PDL, ma sentiamo quanto ha detto oggi nell'aula di Montecitorio il capogruppo Fabrizio Cicchitto. Il presidente Berlusconi ha deciso di rassegnare le dimissioni, ma in questo modo ha fatto due atti di responsabilità rispetto al Paese. Ha dato le dimissioni, ma ha anche deciso di dare l'appoggio a questo governo e, mi consenta, senatore Monti, senza questo appoggio noi oggi non staremmo a discutere sul suo governo, ma staremmo a preparare le elezioni anticipate. Sosterrà il governo Monti fino alla fine della legislatura il Partito Democratico? Sentiamo il capogruppo Dario Franceschini. Oggi siamo nell'emergenza, siamo dentro la durezza della crisi e siamo qui tutti perché vogliamo salvare il Paese e questa missione ci impone di voltare pagina, lasciando alle spalle i toni di rissa, i toni molte volte troppo duri e troppo violenti, e anche ci impone di non girarci a guardarli e a ricordarli, ma di trovare invece la via di una collaborazione. Della Lega Umberto Bossi non ascolta il discorso di Monti, mentre Roberto Maroni definisce il discorso programmatico un'operazione lacrime e sangue, ma è convinto che il nuovo governo durerà. Sentiamo Maroni. Noi abbiamo un atteggiamento molto laico. Primo, garantiamo l'opposizione in un Parlamento. Mi ha fatto molta impressione vedere tutti d'accordo e quindi un'opposizione garantisce i meccanismi della democrazia in un Parlamento, no? E questo è il primo compito che la Lega ha, garantire i meccanismi, che anche dentro qui ci siano i meccanismi della democrazia. E per il momento, per quanto riguarda le reazioni, è tutto a voi studio. Grazie, e sentiamo in diretta l'aula di Montecitorio. Dicevamo sta parlando invece di Pietro. Per questo, signor Presidente del Consiglio, non ce ne voglia. Se noi vogliamo dare la fiducia a che il suo governo si costituisca, vorremmo che lei si rendesse conto che ha di fronte di un partito politico, un gruppo parlamentare che si impegnerà per aiutarla a fare al meglio e bene il suo lavoro, ma che sarà sentinella di quella società civile di cui, mi permetta, non deve essere indignata, perché la società civile in democrazia aiuta ad essere un partito democratico. Di cui... Così dunque Antonio Di Pietro, il dibattito va avanti. Dicevamo il discorso di Monti, ve l'abbiamo fatto sentire integralmente in diretta, un discorso meno ingessato di quello di ieri, e allora torniamo però anche a ripercorrerlo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un intervento oggi decisamente più colloquiale, quello del neo premier, tra precisazioni ed alcuni riferimenti alle polemiche che hanno accompagnato la formazione e la composizione del suo governo, a partire dall'accusa di rappresentare i poteri forti. Un'accusa, questa l'ha definita il Presidente del Consiglio, fantasiosa ed offensiva. Monti ha quindi ricordato il suo ruolo come commissario per la concorrenza. L'Economist ha sottolineato il senatore, mi definì il Saddam Hussein del business. Quindi una battuta sulla durata del suo mandato, chiamatemi pure professore, ha detto Monti, anche perché l'altro titolo, quello di presidente, durerà poco. Monti ha comunque ricordato di voler arrivare al termine della legislatura. Sentiamo le sue parole. Quello che è mia intenzione, naturalmente, è di proiettare la mia squadra di governo e la nostra collaborazione sulla prospettiva da qui alle elezioni. Non mi accingerei neanche, questo l'ho chiarito a tutti con schiettezza, è un compito già quasi impossibile quello che ho l'onore di ricevere. ci riusciremo. Chiedo una fiducia non vigilante, presto ci saranno decisioni non gradevoli, ha annunciato Monti. Poi di nuovo il ricorso all'ironia verso chi ha detto posso staccare la spina a questo governo quando voglio, non siamo né un rasoio né un polmone artificiale, ha commentato Monti. Quindi il ruolo dell'Italia in Europa, dobbiamo tornare alla posizione che ci compete, ha detto il Premier, e su questo il Presidente del Consiglio ha fatto un importante annuncio. Sentiamo. Sono lieto di annunciare che la settimana prossima avrò due visite, una a Bruxelles alle istituzioni comunitarie e una che ho concordato ieri su loro proposta telefonicamente con il Presidente Sarkozy e il Cancelliere Merkel di un incontro a tre per avere d'ora in poi permanentemente il contributo dell'Italia nella soluzione dei problemi dell'Europa. Infine uno sguardo di Monti alla Lega, non vedo contraddizione tra federalismo fiscale e coesione territoriale, ha detto Monti, e dalla Camera è tutto. E grazie anche Vincenzo Miglietta, dicevamo ora atteso il voto di fiducia, ve ne renderemo conto appena ci sarà. Dai Vescovi, in una nota della CEI, questa mattina è già arrivato intanto l'appoggio a Monti, definito un'iniezione di fiducia per il Paese, questo per un governo dove è forte la presenza dei cattolici. Esattamente un mese fa a Todi il cosiddetto conclave dell'associazionismo cattolico sanciva infatti il ritorno del protagonismo cattolico nella politica. Ebbene, tra i presenti a quel summit, tre degli attuali ministri del governo Monti, Riccardi, Passera e Ornaghi. Katia Caramelli ha intervistato Gianfranco Sviderkowski, vaticanista ed ex direttore dell'Osservatore Romano. Non ci sono delle appartenenze precise, ma c'è proprio, secondo me, quella coscienza cattolica che esisteva in Italia, quella presenza cattolica senza partiti politici, senza aggregazioni precise e forse senza nemmeno, per adesso perlomeno, quello che diceva il Cardinale Bagnasco, cioè che ci fosse bisogno di un nuovo soggetto politico. Volevo ricordare che il Premier, tra l'altro anche lui aveva studiato dei gesuiti come Draghi. E poi però ci sono anche altri due, perché per esempio Balduzzi, che è stato presidente del MEIC, cioè del Movimento di Impegno Culturale dell'Azione Cattolica, e poi anche Piero Giarda, quello dei rapporti con il Parlamento. Ma credo veramente che questo sia stato un venir fuori della realtà cattolica per troppo tempo compressa o per troppo tempo identificata soltanto con un partito, con la DC o con la necessità di riproporre un nuovo soggetto politico. Invece questo ha dimostrato che il Paese ha bisogno dei cattolici e soprattutto ha bisogno del loro apporto nella ricostruzione sociale e civile e morale. Sono tutte persone che assicurano un atteggiamento di quella che anche Benedetto XVI parla di sana laicità. E oggi il primo incontro ufficiale tra Monti e Papa Benedetto XVI, il pontefice è partito infatti per il Benin, piccolo stato dell'Africa occidentale. A salutarlo a Fiumicino il neo premier Mario Monti alla sua prima uscita ufficiale. Sul fronte economico oggi intanto i dati dell'Istat, gli ordinativi dell'industria a settembre sono calati dell'8,3% su agosto, una discesa su cui ha pesato la negativa performance del mercato interno. Si tratta del congiunturale più basso dall'agosto del 2009. Anche su base annua si è rilevata una riduzione del 3,6% e il fatturato dell'industria a settembre è sceso del 5,4% su agosto, il dato congiunturale peggiore da novembre 2008. Resta aperto anche il fronte europeo, sentivamo già la prossima settimana gli incontri a Bruxelles, ma anche con Parigi e Berlino. Soffrono i titoli di Stato italiani, ma soffre anche la Spagna che domenica va al voto, soffre la Francia che mantiene la tripla A quasi per miracolo e soffre anche chi sta fuori dalla moneta unica. Cresce la disoccupazione in Gran Bretagna e Cameron lamenta lo stallo delle economie europee, dannosa per Londra. La preoccupazione degli Stati Uniti è costante, lo dimostrano le sempre più frequenti telefonate tra Obama e la Merkel. Anche il Giappone alza i toni, chiedendo alla Germania un fuoco di sbarramento al contagio del debito. Tanti, primo tra tutti Sarkozy, spingono per un ruolo più attivo della Banca Centrale Europea, un cambio di funzione, contrario a Berlino e contrario anche il nuovo inquilino dell'Eurotower. Francoforte assume le sue decisioni in piena autonomia, sottolinea Draghi. L'obiettivo primario resta la stabilità dei prezzi. E comunque la BCE fa già la sua parte, acquistando titoli di Stato sul mercato secondario e non facendo mancare liquidità alle banche. Dove sono invece le misure decise dai governi? Dov'è il potenziamento del Fondo Salva Stati? Incalza il presidente Draghi, servono regole comuni più forti. In questo quadro già difficile va in scena l'incontro tra la cancelliera tedesca e il primo ministro inglese. Cameron arriva a Berlino con l'intento di tenersi sempre più alla larga dell'eurozona. La Merkel lo accoglie con le indiscrezioni di un piano tutto tedesco per affrontare la crisi, un fondo in grado di sostituirsi alla sovranità degli stati in difficoltà. Ci vorrebbe però la modifica del trattato europeo, una modifica sottoscritta da tutti i 27 membri, piegando così anche Londra. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la prossima settimana, dicevamo, gli incontri anche con l'Italia. Intanto ad andare al voto è la Spagna, dopo domani, per elezioni politiche che quasi certamente porteranno a un cambio di governo. Dopo 7 anni e mezzo i socialisti di Alfredo Rubalcaba sembrano destinati a una sonora sconfitta contro i popolari di Mariano Rajoy. Il Partito Popolare, secondo gli ultimi sondaggi, vanterebbe un margine di distacco pari a 17 punti e si avvierebbe ad ottenere la maggioranza assoluta. Nei giorni scorsi a Madrid è stato il nostro Sergio Nava, che ha incontrato esponenti dei maggiori partiti iberici, Juan Moscoso del Prado, deputato socialista. Nosotros creemos que queda mucho partido. Crediamo che resti ancora molto da giocare, dichiara ottimista. Ma quali sono i problemi maggiori in Spagna, le chiedo? El principal problema en España es el paro. Il problema principale per la gente è la disoccupazione associata allo scarso ottimismo verso il futuro. Abbiamo vissuto molto bene negli ultimi 25 anni, ora però la gente non vede l'uscita dalla crisi. Abbiamo commesso errori come governo. Il principale è stato non combattere contro la bolla immobiliare, contro l'eccesso di predominio del settore della costruzione. Quali ricette, le chiedo allora? La ricetta? Occorre scommettere sulla formazione di alto livello. Una parte importante dell'economia spagnola si è distrutta e non tornerà ad essere più come prima. Occorre scommettere su altri settori mantenendo la protezione sociale. Inigo Mendez de Vigo è invece eurodeputato del Partito Popolare Spagnolo. Per il Partito Popolare l'occupazione è il punto cruciale della nostra politica. Le nostre idee sono molto semplici. Occorre scommettere sulla crescita. La crescita genera occupazione e la migliore politica sociale è creare posti di lavoro. Noi dobbiamo raccontare agli spagnoli la verità, chiamandoli a un grande progetto nazionale per la crescita. Personalmente credo che la Spagna abbia bisogno di un grande progetto nazionale inclusivo, con un governo forte e con una maggioranza assoluta. La prima cosa da fare, se vinciamo, è fare un'analisi del bilancio pubblico. La seconda, parlarne agli spagnoli. Successivamente occorre implementare un piano di riforme basato sull'austerità e sull'impulso alla crescita. Occorre un grande patto di Stato con riforme strutturali in grado di toccare tutti i settori. Le interviste di Sergio Nava, vi ricordo che domani mattina alle 8.15 andrà in onda la terza puntata della serie di reportage sulla Spagna al voto. Ci occuperemo proprio della disoccupazione. Le 13 e 16 minuti, le notizie di oggi di GR24, Monti alla prova, alla Camera, ridaremo fiducia all'Italia, ma non dite staccate la spina, non siamo un polmone artificiale. La prossima settimana gli incontri in Europa con Merkel e Sarkozy, un tavolo a tre per le ricette per uscire dalla crisi. 'Ndrangheta, maxi processo a Milano, nel pomeriggio la sentenza. Queste le principali notizie, ma riprendiamo da un'iniezione di fiducia che è già arrivata questa mattina ed è arrivata dalle italiane del volley, Dario Ricci. Sì, buongiorno, straordinario trionfo delle azzurre dell'Ital Volley che conquistano per la seconda volta consecutiva la World Cup dopo il successo del 2007, successo 2011 che arriva grazie alla decima vittoria su 11 partite, perché questa mattina l'Italia ha battuto il Kenya per 3-0, ma soprattutto grazie all'impresa del Giappone che ha vinto i primi due parziali contro gli Stati Uniti che ieri avevano battuto l'Italia per 3-2. Ebbene, con questo risultato parziale le nipponiche di fatto regalano la coppa alle azzurre che a pari merito con gli Stati Uniti vincono comunque il trofeo per quoziente 7. Quindi successo più che meritato però da parte del gruppo guidato da Massimo Barbolini, perché 10 vittorie e soprattutto una leadership costante per tutta la World Cup. Azzurre che ora adesso puntano decise verso Londra 2012, dove a questo punto saranno tra le favorite nella lotta per le medaglie. Ma intanto godiamoci questo splendido successo in terra giapponese. Per il momento è tutto. E grazie a Dario Ricci. Andiamo a Milano, dicevamo, attesa oggi la sentenza per le infiltrazioni 'Ndrangheta in Lombardia. Nell'aula bunker a Milano c'è Raffaella Calandra. Sì, è il primo maxi processo alle cosche del nord. Qui infatti nell'aula bunker di via Uccelli De Nemi alla sbarra ci sono sia coloro che per la procura erano i capi indranghetisti della cosiddetta provincia lombarda, un territorio cruciale nella geografia delle cosche calabresi, sia la loro fitta rete di relazioni sociali e economiche. 119 gli imputati in questo processo con rito abbreviato, dei 300 in totale arrestati nel luglio scorso nella maxi blitz tra Calabria e Lombardia. I PM di Milano hanno chiesto condanne da 1 a 20 anni per i vertici delle 15 locali, cioè i feudi delle cosche in cui era diviso il territorio lombardo, a cominciare dal presunto capo Pasquale Zappia, scelto in quel famoso vertice tra boss avvenuto a Paderno Dugnano e filmato dalle telecamere degli inquirenti. E questa mattina, mentre la nebbia avvolgeva fitta questa periferia sud della città, gli imputati detenuti sono arrivati da più carceri d'Italia e anche i loro parenti per aspettare il verdetto atteso, come dicevi, nel pomeriggio del giudice Roberto Arnaldi, che metterà comunque, andrà a finire, un primo punto fermo su quello che per i magistrati è stata la colonizzazione del nord ad opera dei clan calabresi. E per ora dall'aula bunker è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Un'altra inchiesta che riguarda Milano: fiumi di denaro sottratti alla Fondazione San Raffaele Monte Tabor, operata da 1,5 miliardi di passivo, denaro che sarebbe uscito dalle casse del gruppo ospedaliero grazie a un giro di contratti strapagati e consegnato dall'ex vicepresidente Mario Cala, morto suicida lo scorso luglio a Piero D'Accò. È questa la ricostruzione dei PM milanesi titolari dell'inchiesta per bancarotta aggravata. Il governatore lombardo Roberto Formigoni questa mattina sulla vicenda è tornato a 24 Mattino. Pierangelo D'Accò non aveva con Regione Lombardia nessunissimo tipo di rapporti, svolgeva quello che si sa dei lavori di consulenza con il San Raffaele, dopodiché Regione Lombardia aveva a che fare con gli amministratori del San Raffaele, che era è uno degli ospedali più moderni, più avanzati e migliori non solo d'Italia ma del mondo. E... ma lei vuole dire, può escludere che uomini della regione abbiano incontrato appunto D'Accò in quanto rappresentante del San Raffaele o comunque? Ma questo probabilmente è accaduto, ma certamente, ma quando, voglio dire, quando il San Raffaele, ripeto, istituzione privata, manda in propria rappresentanza a rappresentare le sue posizioni, questo o quello, è chiaro che chi sceglie di essere rappresentato è la società che lo fa. Una commissione d'inchiesta hanno chiesto anche qualcuno di fare sul San Raffaele in regione, è possibile? O... ma guardi, francamente sono vicende su cui sta indagando la magistratura, mi sembra che questa decisione, ove fosse assunta, intralcerebbe il lavoro della magistratura, si sovrapporrebbe al lavoro della magistratura, faccia la magistratura. Così Roberto Formigoni, intervenuto a 24 Mattino, al momento della nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Aveva a disposizione una villa di proprietà e una domestica a tempo pieno, un tenore di vita al di sopra del suo stipendio mensile di circa 1000 euro, un esempio lampante di evasione fiscale, almeno questo pensava di aver accertato l'Agenzia delle Entrate di Bari, che ha invitato il presunto evasore a presentarsi, ma il diretto interessato ha dimostrato che di nero in questa storia c'era solo la sua tonaca. Il proprietario della villa è infatti un parroco, Don Giorgio di Sant'Antonio Abate di Fasano, il quale, carte alla mano, ha dimostrato pochi giorni fa che il redditometro non è uno strumento per preti. In base al concordato, infatti, i sacerdoti non sono tenuti a dichiarare le offerte dei fedeli, ma il rapporto tra religiosi e fisco non è sempre così pacifico. Nel caso, ad esempio, degli immobili religiosi, dove l'ospitalità è offerta a pagamento, si devono pagare le tasse, lo ha stabilito la Cassazione il 9 novembre scorso, dando ragione al ricorso di un comune contro un monastero delle Orsoline, 85 posti letto con bagni privati sul Lago Maggiore. E cosa dire di quei frati che in un'abbazia di Arezzo, come ci ha segnalato una nostra ascoltatrice, esercitano come guide turistiche senza che su questo vengano pagate le tasse? Nell'abbazia in questione si fanno almeno 30 giri turistici al giorno ad almeno 50 euro a visita. In 8 mesi fanno 360.000 euro esentasse. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si sciopera in Cina, migliaia di operai stanno incrociando le braccia contro i licenziamenti e i tagli dei salari a Dongguan, una città industriale nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. Le proteste sono cominciate quando una compagnia taiwanese che produce scarpe sportive per marchi come Nike e Adidas ha annunciato il licenziamento di 18 manager cinesi e tagli dei salari. Di Cina continueremo a parlare alle 13:45 con America 24. Dialogo con l'opposizione armata ai talebani, di questo tema discute oggi la Loya Jirga, la grande assemblea consultiva afghana. È un passaggio fondamentale per la crescita della democrazia, sottolinea Pino Arlacchi, europarlamentare ed estensore del rapporto sulla nuova strategia dell'Unione Europea per l'Afghanistan. Un rapporto in cui Arlacchi denuncia però la grave dispersione dei fondi, anche europei, destinati al paese. L'intervista di Laura Bettini. È preoccupante la catena di sprechi che fa sì che i soldi che arrivano effettivamente agli afghani siano non oltre il 20% di quanto viene stanziato. La corruzione del governo afghano è un aspetto del problema e, per quanto possa sembrare paradossale, non è neanche l'aspetto più grave. C'è quella che io chiamo la corruzione soft, e cioè lo spreco nel modo in cui gli aiuti vengono spesi, che distrugge una quantità di fondi superiore a quella che viene distrutta dalla corruzione afghana. Bisogna eliminare consulenze inutili, 12% del miliardo di euro che l'Unione Europea spende ogni anno per l'Afghanistan va in consulenze, l'enorme costo dei progetti per via della intermediazione tra agenzie varie che si subappaltano i vari progetti o tra imprese che fanno lo stesso gioco, una scuola in definitiva che dovrebbe costare 100.000 euro viene a costare 5, 6, 700.000 euro per via degli sprechi. È arrivata un'altra conferma: i neutrini più veloci della luce hanno superato questa mattina di 60 nanosecondi un altro test molto importante, al punto che adesso ogni possibile fonte di errore nelle misure è stata eliminata. Per la conferma definitiva si attendono ora solo i test indipendenti. La polizia di Los Angeles ha riaperto dopo 30 anni le indagini sulla morte di Natalie Wood, l'attrice protagonista di film cult, sparì dal suo yacht dove si trovava insieme al marito e fu ritrovata in mare il giorno dopo. Parliamo di spettacolo e di arte. Art for Business Forum è l'evento in scena oggi e domani alla Triennale di Milano dedicato al tema imparare il presente, con designer, attori, musicisti e dirigenti d'azienda. L'artista Patrick Tuttofuoco al microfono di Adriana Fracchia. In che senso l'arte può stimolare le imprese a una nuova prospettiva nell'interpretare il presente? L'urgenza di una nuova prospettiva e di una nuova interpretazione del mondo e una nuova strategia per apportarci mi sembra un'urgenza assoluta, che va al di là del business, ma ha a che fare con la vita di tutti quanti noi in Occidente in questo momento. Il ripensarsi e riorganizzarsi credo che sia quasi un dovere oramai, e tutto quello che l'arte può dare, che è tanto, sta proprio nella sua capacità, essendo libera probabilmente anche da certi ingranaggi, può avere dell'accelerazione o comunque istituire dei sistemi veramente differenti per interpretare le cose, di conseguenza dare degli spaccati, delle prospettive. E nel frattempo a Montecitorio, ultime battute ormai per gli interventi dei capogruppo prima del voto sul governo Monti. In questi istanti sta parlando Pier Ferdinando Casini, sentiamo. Penso che il Presidente del Consiglio, nella sua replica, abbia dimostrato che si può sussurrare dicendo cose molto forti. E io credo che la nostra mente oggi dovrebbe andare a questi 4 anni che abbiamo vissuto, non certo per riaprire ferite, non certo per rivendicare primati o per chi sta all'opposizione o per chi ha legittimamente governato grazie alle scelte degli elettori. Non è il momento, avremo tempo, ci saranno competizioni elettorali. E così dunque Casini, dicevamo, il dibattito ancora alla Camera, attorno alle 14 previsto il voto di fiducia sul governo Monti, ve lo racconteremo in diretta. Nel frattempo questa edizione di GR24 termina qui, Fabio Cantadori in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.